Va, vi racconto in breve, poi vediamo il documentario e poi possiamo parlare di più. Questo libro è pubblicato 25 anni fa circa, è la storia di Léonard Peltier. Io lo comprai quando venne tradotto 20 anni fa in italiano, mi colpì moltissimo, però rimase un po' nel cassetto. Quando ero a Barcellona, vivevo a Barcellona, sono un maestro elementare, mi chiamo Andrea, ho vissuto lì 10 anni e poco dopo il movimento degli indignati, che ricorderete, facemmo una lotta durissima e fortissima e bellissima, in cui per 5 mesi, tutte le sere dalle 8 alle 9 di sera, bloccammo un incrocio e salvammo un ospedale. Questo cosa c'entra? C'entra col fatto che gli ultimi 20 rimasti di questa lotta in cui si salvò l'ospedale erano come una famiglia, e io poche settimane dopo li coinvolsi in questa lotta per Léonard Peltier, perché mi era rimasto come riposo, e avevamo il consolato non lontano da dove ci trovavamo, e quindi cominciamo giovedì 6 febbraio di 14 anni fa, l'anniversario della sua entrata in carcere, e cominciamo tutte le settimane, se avete imparato questa cosa, insomma, da dare ciclicità, bom bom bom bom bom bom. Quindi tutte le settimane per 6-7 mesi andiamo avanti, a parte le pentole lì sotto il consolato per un'ora. Poi depersificammo, raccogliemmo firme, sottotitolavamo un documentario, ne andavamo a parlare ovunque e così sono passati gli anni. Dopodiché sono rientrato a Milano, ho cercato di rimbastire qualcosa di simile qui a Milano. C'erano queste tre grosse scadenze che ogni volta ci vedevano in piazza, che erano il 6 febbraio, anniversario della sua entrata in carcere, il 26 giugno, l'anniversario dei fatti per i quali Léonard Peltier è in carcere, il 12 settembre, che è adesso, in cui c'è il suo compleanno. Le abbiamo provate tutte, immaginate che sono passati, appunto, lui l'ha scritto 23 anni fa, ne sono passati 23 prima, 23 dopo, anzi 49 siamo arrivati, e questa settimana è davvero clou, perché il 12 settembre compie 80 anni e domani, se riuscite a venire alle 6:30, facciamo un presidio sotto il consolato a Milano, poi io vado a Genova il giorno dopo, poi il giorno dopo vado a Roma, poi il giorno dopo vado a Napoli, a Firenze, insomma facciamo tutti i consolati. Abbiamo un po' di rete di amici e compagni che ci danno una mano, perché venga raccontata questa vicenda, perché fondamentalmente la loro arte è quella di tacerla completamente nel silenzio, possono fare quello che vogliono. Quindi Léonard Peltier compie 80 anni, o firma adesso Biden prima di mollare, o la vediamo durissima sul fatto che lui possa uscirne vivo. Ogni volta ci siamo rialzati, e lui per primo, ogni volta che abbiamo subito mazzate, ma questa rischierebbe di essere l'ultima. Io direi, guardiamo il documentario e poi parliamo, va bene? Se no, vedete. Ci sono due cose che così possono aiutarvi a vedere. Uno, vedrete che è tutto il seguito di questa venuta di queste tre native che 2 anni fa mi chiesero di aiutarle nel percorso che avrebbero fatto in Italia, avevano girato tutta l'Europa. Andammo a prenderle a Modane in Francia, per cui vedrete che in parte anche in francese, perché facevamo un collegamento con la Notav, con la Val di Susa, che perché pochi mesi prima avevamo intitolato, curiosamente, a Léonard Peltier il presidio di San Didero. Quindi vedrete che vanno là, vanno a Torino, a Milano, a Roma, e due cose. Una, vedrete Jane Roach, questa un pochino più massiccia, la vedrete poi nelle immagini di repertorio, si capisce però è lei che a 15 anni era presente quando ci furono i fatti di Oglala. La seconda cosa che secondo me forse andava spiegata un po' di più, che vedrete questi gruppi dei Goons, con questo Dick Cheney, insomma, sono delle bande paramilitari che combattevano l'America Indian Movement, ma la cosa che secondo me va sottolineata è che erano composte da nativi stessi. Cioè gli Stati Uniti, il governo, l'FBI erano riusciti, come dire, a curarne una parte comprandola con una gestione molto mafiosa di questi fondi, e questi stessi che venivano armati dall'esercito e dall'FBI facevano queste azioni molto violente contro l'America Indian Movement. Di Léonard Peltier l'ho conosciuta circa 20 anni fa, leggendo il libro, una traduzione italiana, La mia danza del sole, la sua autobiografia, in cui lui 23 anni fa scrive e racconta tutta la sua vita e l'enorme sofferenza di 23 anni di carcere di massima sicurezza. leggendo ora quelle parole, uno deve pensare che dopo quelle parole lui ha passato altri 23 anni in carcere. Questa storia mi colpì moltissimo e 10 anni fa ho cominciato ad attivarmi per contribuire alla sua liberazione. Portava semplicemente per dire giustizia al suo popolo, niente di più, quindi tutta la nostra solidarietà. Buonasera a tutte e tutti. Cominciamo questa serata di incontro con questi delegati che vengono dagli Stati Uniti d'America per illustrarci la situazione di Leonard Peltier. Io volevo semplicemente dire che noi come Ateneo Libertario siamo molto contenti di aver organizzato questa iniziativa, anche perché sono anni che seguiamo questa vicenda. Addirittura dalla fine degli anni 70, quando qui c'era la redazione di Umanità Nuova, il nostro settimanale dedicò tra i primi articoli dedicati alla vicenda di Leonard Peltier. Quindi per noi è una storia che continua nel tempo e che vorremmo vedere finalmente la fine. Elles nous ont aussi offert une étape de leur tournée européenne. Hein. Elles sont en Europe depuis le 12 septembre et leur intention est de sensibiliser non seulement les populations, donc nous-mêmes, les populations d'Europe, mais aussi toutes les institutions européennes, afin que Léonard Peltier, qui est incarcéré depuis 47 ans pour 2 crimes qu'il n'a pas commis, soit enfin libéré et qu'il puisse profiter des dernières années de sa vie en paix. 5 mesi fa raccontai questa storia e c'era presente Emilio Scalzo, che poi abbiamo aggiunto nello striscione, e lui mi invitò a tornare in valle a raccontare la storia. Quando la raccontai 3 mesi fa, i primi di luglio, decisero di intitolare il presidio a Leonard Peltier. Le mie cha na wa jie lo he wa ma yang ka yo le mie cha na wa jie lo he we a he a he a he he yo we a he a he Sono onorato, noi siamo onorati di avervi qui e vi ringraziamo per questo canto, perché noi qui siamo poco spirituali, però noi sappiamo che la terra e l'universo sono con noi. Na wa cielo. Everybody, my name is Jean Roach. I'm a Minikoju Lakota from the Cheyenne River Sioux Tribe. I'm a survivor of the 1975 firefight while Leonard Peltier is in prison. The reason why we were in Oglala was to help protect our grandmother and grandfather from attacks that were being targeted towards members of the American Indian Movement. So we're already living by the law of the gun because we're targets from the goon squads. Anybody, American Indian Movement, anybody with long hair, even especially the guys, they're automatic targets. So anyway, that's the way it was, what they call the Reign of Terror. Like I said, during that period, you know, from 1973 after Wounded Knee into the 70s until reconciliation started, which I don't know exactly when that started to happen, but anybody praying in the Lakota Way or the Sundance or the Sweat Lodge were targets at that time. Nel 1968, quindi lui ha 24 anni, nasce l'American Indian Movement, questo movimento di cui loro fanno parte, ed è questo movimento che cresce parallelamente alle Black Panthers e ai movimenti contro la guerra in Vietnam. L'American Indian Movement compie delle azioni formidabili, di una enorme forza. La prima è l'occupazione dell'isola di Alcatraz, dove c'era questo vecchio penitenziario. Occupano e per più di un anno resistono in quest'isola. It was the first and significant movement that I learned about, and because I didn't know much before, you know, I didn't know my history. They never taught us Indian history in our schools. They never mentioned us at all. So that's where the movement for me started, and I started learning about treaties. I started learning that the 1868 treaty, and that's why the students took that treaty, took that land, because for 6 years it had not been used. It was empty, it was no longer used in the Bay, so the students took it over with that treaty. And because all that excess land that the government has that they took from us before for military bases, forts, national parks, wherever they took land from us. And the police didn't come before? No, yeah. There were, sometimes they were threatening us because we wanted people to see the island when they came into the Bay. We really wanted them to see us, because we took over this land right here and we have a fight. And so we tried to keep the lighthouse going so that they would see us. And there were people who donated a generator for us to keep our lighthouse on. Support from other people, not Indian people. Right. We had a lot of support in the Bay Area. Some of the money, they had offices at different places, and we had an office space that took donations and the food, and we had to haul our own water to the island. And it was a time in my life that I didn't need any money. I had no use for any money. Way back in 1975, on June 26th, we were living or staying at the grandma and the grandfather's home. Grandma Jumping Bull and Grandpa Jumping Bull. And what we were doing was helping the community of Oglala to become an independent community from the tribal, the Oglala Sioux tribe. And the reason why was because the tribal president of the Oglala Sioux tribe was Dick Wilson, who was also the head of the Goon Squad, which was a group of vigilantes that hated American Indian Movement people. And they were created put together around 1973 during the Wounded Knee occupation. There, the United States government funded them with automatic weapons, armored personnel carriers, whatever they needed, they were given to attack the people, the American Indian Movement, in the Wounded Knee takeover of 1973. So that's the basis of them there, of Leonard and the rest of them being there. I just happened to be there after a conference in AIM conference in Farmington with a lot of other young people. We were all under 18. Some of the guys that came from Navajo Nation were going to the Sundance. We were all preparing different ways. Same time, we were helping the grandmother and the grandpa. They just celebrated their 50th wedding anniversary. So they had made a big arbor. It's like a circle. And they had a powwow, and they fed the people. So we helped. We helped serve the meal. We helped clean up and prepare for the celebration. And during that time, after that, we would be helping the community in whatever way they needed. You know, the guys would do whatever. Would, you know, just being there as helpers is basically why we were there. We built a garden, or planted a garden, on the grandma's and grandpa's land. So it was just like a community building camp. And on this particular day, two cars pulled up on the property, unmarked cars. Two men got out of these cars. They were plain clothes. And they started firing upon the group of American, of all of these people. There's 40 people on this property, several different houses, and most of them were women and children and elders. And they opened fire on everybody. And so Leonard and the other two men came up, because their camp was down a little bit further down into the woods, and fired back. Because they were dying. They were going to kill them. They didn't know what was going on. They lived by the law of the gun at this time. And they knew they had to protect these women and children from whoever these two men were. They could have been vigilantes from Dick Wilson. They could have been goons. They had no idea who these two men were. But they were shooting at them, so they fired back. And as a result of that, these two men died. Upon walking up to this car, They looked in the back seat of the car and saw FBI jacket. At that time, they knew their lives were over. They knew these were FBI agents and that the government was not going to let them live. And at that very moment, a sniper came, because they had already heard, radioed in, that there's gunfire at the Jumping Bull Ranch. So they sent over 150 troops into that ranch, and a sniper got there first. Nobody was firing at anybody else, but they killed Joe Stuntz right between the eyes. That's murder. That was murder. He wasn't shooting or firing at anybody. He was standing there. They were all trying to figure out what just happened. What just happened, and what should they do? Because if they stayed there, they knew that they would die. They knew these children would die, these women would die, the elders would die. So they had to leave, and they had to leave Joe Stuntz there. To this day, no one has investigated his murder, and no one has been held responsible for that. Then we heard a whole bunch of gunshots, you know, like all over. And we immediately, me and Nilak, she's the older lady, she was like 21, and my little brother and Lena, who was about my age, I was 14, she's probably 15. We went down towards the creek walking to get out of the area. And so we were just walking, trying to get out of there. And within an hour, it was already surrounded, the whole, you know, area where we were at, which is a forest here, the grandma's here, is kind of plains, the highway's here. And in the back, there's a road, and we turn around because we can't get through. It's already blocked, the road. So we go back, and we just happened to meet Leonard and Dino and Bob and the other guys that were there, the young people. And they told us what happened, and then that's when he told us that Joe Stuntz got, you know, that he got killed. And we're just taking a moment and just saying a little prayer, you know, to get out of there. And we come to the back road, not the highway, there's a back road that has like a big culvert. Like you can walk through it, I think we had to crawl in it. So everybody went in there, but you could see the cars going by, you know, the feds and everybody, the federal agents driving. And we're hiding inside the culvert. And us young people, we go on the other side, and we climb in the trees, and we're watching the cars go by, and there's a plane that's been going for hours, and we're waiting until that plane leaves, because where we have to run to, there's no trees, nothing. And it's uphill. But it's really strange. We're sitting in these trees and watching all the cops, and these guys are hiding under the ground, you know, with all their weapons and everything, you know. So the plane finally leaves, and we run up this road, and we just have like, I don't know, it's quite a ways. And one of the other women, well, she was the woman that was with us, Nilak, she lost her shoes as we walked in the creek. You know, they got stuck in the mud. So we all gave her our socks, right? And we just booked it, and everybody just ran all at once. And, you know, they shot all around us. And I think I just kind of froze up about halfway. I just threw myself on the ground because they were coming way too close, the bullets. You know, you could see it hit the ground. And I looked up, and then I could see Dino. There's like a big rock. And he's like, come on. But, you know, I couldn't move for a while. Everybody else already left. I think I was one of the last ones to get up there. So I jump up, and I start running again, and they start shooting at us. And he's like, you know, I made it. Everybody made it. Nobody got hit, even though they used like 35,000 rounds of ammunition that day. Più significative, io credo, sia quella che a posteriori l'FBI raccontò che i due agenti Erano arrivati presso la comunità di Oglala, dove la tensione era appunto quella di cui parlavamo, semplicemente perché stavano ricercando un nativo americano che aveva rubato un paio di stivali. Allora, questa cosa è quantomeno curiosa, se non strana, e lascia pensare che era probabilmente una scusa per arrivare lì e provocare quello che poi è stato il famoso incidente a Oglala, nel quale poi malauguratamente persero la vita due agenti dell'FBI e uno dei nativi. Ma non gliene frega nulla a nessuno, chiaramente, di quel nativo, perché per decine e decine di nativi che erano morti in quel periodo, considerate che in Sud Dakota in quel momento c'era la più alta percentuale di agenti dell'FBI di qualsiasi altro stato degli Stati Uniti. Cioè, il fuoco era lì, dovevano distruggere quel movimento come dovevano distruggere le Black Panthers. Tanto che a posteriori si saprà su un libro, è documentato tutto, sono usciti i documenti, che c'era un programma che si chiamava Contel Pro, che dovevano distruggere questi due movimenti infiltrandoli, mettendoli in galera, provocandoli o ammazzandoli direttamente o facendoli ammazzare da questi scagnozzi. Bene, rispondono al fuoco quei due agenti iniziali, quei due agenti muoiono e chiaramente l'FBI, come dire, scatta la molla, hanno ucciso due dei nostri. E quindi vengono accusati in tre, vengono ricercati in tre, Dino Boutelet, Bob Robidoux, che sono cugini fra l'altro, e Leonard Peltier. Nel giro di alcune settimane arrestano i primi due, Bob Robidoux e Dino Boutelet, e viene fatto un processo. Questo processo è giusto e corretto, miracolosamente, e i due vengono scarcerati, vengono assolti con formula piena e viene detto dal giudice: non abbiamo alcuna prova che siano stati loro, ma soprattutto dice questa frase che secondo me spiega tutto, dice: anche fossero stati loro sarebbe stata legittima difesa. Benissimo, restava Leonard Peltier, che arrestano alcuni mesi dopo, il 6 febbraio del 76, e lo arrestano in Canada però. Lo arrestano in Canada e gli Stati Uniti devono avere le estradizioni, devono in ogni modo avere l'estradizione, devono tirar fuori delle prove. E quindi prendono una donna nativa, la terrorizzano e le dicono: tu devi dire che sei la compagna di Leonard Peltier, che i tuoi figli sono di Leonard Peltier e che tu l'hai visto che lui ammazzava quei due. E questa donna è terrorizzata e lo dice, dichiara questo. And the people we see, we hear about it, and we say like, who's murdered Poor Bear? We never met her in our life. And she's never been to our camp. And so the FBI went beyond, and nobody would cooperate with them, so they found this poor woman that they just totally abused, sent her affidavit to Canada, and Canada goes, yeah, we'll extradite him. Però ce l'hanno oramai nelle loro grinfie e l'FBI dice: questa volta non facciamo il processo nello stesso posto, e lo fanno in una città di Fargo, di grande tradizione razzista, una giuria tutti di bianchi, un giudice che conoscono, bello razzista, e in 4 e 48 Leonard Peltier si becca due ergastoli. And from that day to now, we fight for him. We fight for his freedom, because Leonard is a protector. He's a protector of our Mother Earth. He is a protector of heritage and culture and of his people. We feel like Leonard Peltier represents the relationship between the United States government and the indigenous nations, and how we're treated. We have a letter from the prosecuting attorney that put him in prison. So he's asking the president to please release this man, because we lied. We falsified documents. We did what we could to railroad one man into prison for the errors of the FBI that day. So this became a very emergent situation that we stand up and rise up for Leonard Peltier and bring our voices as loud as we can to the world, to let them know that this man has been in prison for over 47 years, arbitrarily, for no reason. He is innocent. Justice, but what is justice? Justice, the definition of justice is just behavior and treatment. until Leonard Peltier is free, none of us are free. Fishing rights, land back, education, many of these things and many of these policies were created because the conditions were created by the American Indian movement for these things to happen. But one of our relatives, Leonard Peltier, has not been able to benefit from those changes, has not been able to benefit from the very things that he fought for, from the very movement that he sacrificed to build. And so we come together here to remind the United States that Leonard Peltier is the longest incarcerated political prisoner in the history of the United States. At the age of 9 years old, Leonard was a victim of the boarding schools. And if you don't know what the boarding schools are, that's where the Catholic Church and the government came and took Native American children from their parents. They abducted them, put them into schools to teach them the European way. Over 150,000 Native American children were abducted into these boarding schools over the last 150 years. I was 5 years old when I went to boarding school. And I always say that I was a baby because I didn't know how to make a bed. I didn't have my own bed. And we did a lot of marching and lining up and being on time and all those. My grandmother gave us, took us to school. And when she took us to school, she told them not to cut my hair. And my hair was really long. And she must have had some power because they never cut my hair. And everyone's hair was cut the same way. And it was kind of like a bob, but it was all like this and all like. We usually only cut our hair when somebody close to us dies. Like I lost my mother this year and I lost my brother. So my hair's short. And I had love in my family. And they weren't allowed to hug us or to touch us or show any love to us. The school was funded by the government. There's a like Department of Education or Indian education that, you know, is above the boarding school. It was first the War Department, and then it was the Interior Department and the Bureau of Indian Affairs school. Play was taken from us. We hardly play, no dolls, no, we did rosaries. We put rosaries on a little thing and sent it out to people to get money. And they already got money for us from the government. But the Catholics would send rosaries out and they advertised of us that we were 300 poor Indian boys and girls, orphans. That experience for Leonard gave him energy, because when you come out of a boarding school, you have one of two directions to go. You either hide and you lose yourself in alcohol or drugs, or you stand up and you become a warrior and you fight for your people. Now this is 1953. Leonard chose to be a warrior for his people. They were also facing relocation. They'd already been moved from their homes and put on reservations, but now a lot of these reservations, they found minerals, they found uranium, they found lithium, heavy metals, gold. So then they started relocating the natives again, and they started to put them into big cities. They had no idea how to live in the big cities. So now we have so many homeless relatives living in the cities, sleeping on the streets, not enough food to eat, and they drink because, I don't say why, I say why not. When you have so much pain and trauma inside of you, sometimes that's the only way for some of them to deal with this. And it's unfortunate. We are trying right now to help these homeless relatives by providing tiny homes for them and to give them the available rehabilitation, help with trauma counseling, and help with coming back into society and living a good, honest life and a good, healthy life. I'd like to talk a little bit more about historical unresolved grief. I worked in this area since 1992, and we did trauma work nationwide with, I think I had, was with six other therapists, and we talked about boarding schools because we recognized that was a big trauma for our people, and we were coming out of South Dakota, so we were in touch with other Native people who were sober and who were therapists, either master social workers, PhD social workers, and I was, I'm an art therapist, so that was my contribution to the Takini Network, which means Survivor Network. So since 1992, we've been doing this work in the state of South Dakota. And we went and helped other people in other tribes. Like, I know we went to New York and we did and their trauma was the Kitsui Dam, and they were removed from their lands. So knowing that trauma, every people's trauma would help me to get stronger and have more knowledge and wisdom about this trauma and what they did to us. My language was taken away. My spiritual ways were suppressed and repressed and oppressed for many years. And we want everything that they've taken away from us, we want it back. the connection that we have by coming here, human rights and climate and Mother Earth and all that, that's part of our Lakota way, history, circle. So what Leonard Peltier represents is a whole fight against a system. And we have treaties, our land's been abused, we face gold mining in the Black Hills, the most sacred area of our people, like here the mountains, you know. They're attacking through gold, uranium, lithium, water. They're stealing the water to do these things and polluting it. So we try to encourage our tribes to stay on top of the environmental issues, but we're so swamped with survival, you know. This is not a big a priority, even though it should be. So right now we're just really trying to let people know that, you know, right now they're trying to do like a fracking of gold, and they've just gotten approved recently for 12 or 14 exploratory holes in the earth, which will also affect our clean water. We have a watershed up in the Black Hills that all of Rapid City gets our water from. If any of that wastewater dips into or gets seeps into it, which we know will happen, it'll contaminate our water, which they already done in the 1940s in the Southern Hills with uranium mining tailing pond that spilled into the Cheyenne River, and all the drinking water from, you know, it's still dirty. It don't go away, even though it's 1940, what, 80 years ago? Protect our earth. We're not going to be here in 20 years. You know, the water is going to be gone. So the water fight is very important to everything, not only us, but the animals that don't have a voice. You know, we have to represent them. Everybody. Yeah. So. Pour nous, c'est un grand honneur en fait de vous recevoir déjà ici, parce que je me rends compte que, enfin, nous nous rendons compte en fait que nous nous battons de la même manière. Vous êtes moins longtemps que vous. Mais nous nous battons pour les mêmes choses en fait, pour la vie, pour le vivant, voilà, pour l'eau, pour la terre-mer, comme tu dis. C'est très beau, j'aime beaucoup ce mot terre-mer. Earth, Mother Earth, Pachamama. Voilà, je pense que c'est ça qui nous unit tous en fait. I think that there's so much overwhelming evidence. Okay, the big movement that uprise again was Standing Rock with the water. Okay, but keeping that momentum and to get into a deeper issue of examining and reading these reports, you know, that type of intellectual that we need more of. Yeah, we can all go stand at the front line, but we need people to really keep an eye on it, because it's more the older, the companies are the ones that are making the profit, and same as they do in other countries, you know. Same storyline, same tactics. They use Kontal Pro 2, they attack their leaders. Just like every movement, you know, it's like a colonization worldwide. You know, their patterns are real similar. 4 kilometers. 4 kilometers. Yeah. And, donc, là, il y a la forêt qui a été entièrement rasée pour entreposer des déchets, des déblais qui vont être sortis du tunnel futur. Yeah, yeah. Et donc en fait, juste avant, il y a un convoyeur suspendu qui va amener les déchets depuis la zone de chantier vers la forêt. Ça, c'est ce qui est visible. Mais la plus grave et invisible, c'est l'eau. C'est-à-dire, quand ils ont creusé le tunnel, ils ont pris l'eau de la montagne. Et donc toute l'eau qui est contenu dans la montagne va être sorti par le tunnel, et donc on n'aura plus d'eau. Donc en fait, on va détruire des forêts, on va détruire l'eau, on va détruire des paysages pour gagner quelques minutes en train. Et c'est impossible, c'est une autre façon de voir le monde. Détruire le monde pour gagner quelques minutes, c'est fou. Et donc en fait, quand on se bat, nous, ils disent que c'est nous qui sommes fous parce qu'on se bat pour ça, et c'est nous qui sommes arrêtés et empêchés de pouvoir manifester. Aujourd'hui, la Maurienne vit un moment historique parce que c'est vrai que nous sommes d'horizons variés. Pourtant, nous sommes des êtres vivants habitants de cette planète. Et je crois que tout habitant de cette planète a le droit de défendre les biens communs où qu'ils soient. In tutti questi anni, dal lato italiano, siamo stati repressi duramente, ci hanno arrestato e disposto numerose forme di attacco repressivo e giudiziario, ma siamo ancora qua e stanno arrivando centinaia di italiani alla manifestazione di oggi. Quello che ci guida è l'amore, l'amore verso questa terra, le relazioni umane che sono quelle differenti del potere capitalista. Thank you. Pour moi, aujourd'hui, votre rencontre me donne encore plus de pouvoir. Votre rencontre. Et plus d'envie de et se d'envie, battre. Et d'envie. Ça nous donne envie vraiment de nous battre parce qu'on se rend compte qu'on se bat pour quelque chose qui est vital. Juste. Qui est juste, qui est noble. Mmh. Voilà, c'est la vie. Mmh. On défend la vie. Mmh. C'est ça qui est important. Mmh. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. Grazie. Même Pompon, il le dit. Allez, on va les laisser rentrer. Ouais. Have a good night. See you tomorrow. Voi ci avete riportato una storia che dura da secoli e che sentiamo sorella perché ci parla di una trasversalità tra gli esseri viventi. Noi abbiamo visto anche qui la nostra terra che aveva foreste, che aveva campi di grano, trasformata in cantieri che asfaltano i diritti degli esseri umani e della natura, ma anche la speranza del futuro di tutti. Stiamo vivendo una guerra comune che tocca tutto il mondo e la natura comincia a ribellarsi. E la colpa dei grandi disastri naturali siamo ancora noi che abbiamo dimenticato il rapporto con la madre terra, che è anche un rapporto di pace, un rapporto al femminile, dove non esistono prepotenze e non esistono neanche carceri, perché il carcere è l'estrema espressione della violenza e della prepotenza del sistema. E quindi possiamo dire che Léonard Peltier è davvero uno di noi, simile a tanti altri compagne e compagni nostri che da anni e anni subiscono il carcere perché hanno tentato di lottare per la liberazione, per l'uguaglianza, per un mondo più giusto e vivibile per tutti. Il movimento No Tav ha i suoi compagni e le sue compagne in carcere e quindi noi sappiamo bene che il carcere, come espressione di una prepotenza indicibile, di una violenza insopportabile, va abolito. Vi ringraziamo. Vi abbracciamo davvero con tanto affetto da sorelle a sorelle e da fratelli a sorelle. Thank you. Ditemi tutto. Fai un aggiornamento sulla questione dei nativi oggi. Dei nativi oggi, ma... Però vi dico prima due cose. Uno, grazie ad Andrea Galafassi che è stato il regista. Questo Andrea Galafassi, che ha seguito le native in tutto il loro percorso, ha fatto le riprese, ha cercato il materiale di recupero così. Poi avete visto l'anno scorso era la Moyenne, perché è successo dopo la venuta delle native, quei fatti in Francia, e si è preso anche un candelotto, secondo me per quello ci ha lasciato un minuto a vedere candelotti, perché lui se ne è preso un piede e gli ha fatto molto molto male. Ha lasciato anche il timer, non lo so, è decisione sera del regista, quindi non chiedetemi perché, ma bisogna ricordare il tempo. Su come stanno i nativi, beh, prima due parole su come sta Pelletier. Pelletier sta che due anni fa, quando vennero queste native, fecero questo grande giro, andarono anche a Ginevra, insomma, cioè, era stata una bella spinta. Contemporaneamente negli Stati Uniti avevano fatto una marcia di 3 mesi a tappe, in cui avevano percorso 2,000-3,000 chilometri. Insomma, delle cose grosse in cui si sperava che Biden battesse ciglio, invece nulla. E luglio scorso c'è stata quest'altra mazzata, perché a giugno si riunì questa commissione che per motivi di salute avrebbe potuto liberare Pelletier dopo anni che non aveva, come dire, avuto la possibilità di riunirsi, invece questa commissione aveva poteva. E si sperava, io ero molto ottimista, forse un po' ingenuo, un po' illuso, però pensavo, beh, così lo tirano fuori senza che un presidente si debba sputtanare firmandolo, tira fuori una commissione per motivi di salute. E invece merda, quelli dell'FBI ancora una volta hanno proprio messo nero su bianco dicendo no, mi spiace, per noi non deve uscire. Quindi è proprio pesa questa cosa. E per cui è stata una bella mazzata. E adesso c'è la speranza appunto che Biden, andando via sì o sì, abbia la forza e il coraggio, però c'è da essere ottimisti, però ne andiamo avanti a spingere. Su come stanno i nativi, non so, io penso che siano... Allora, qualche anno fa l'avete visto per questa pipeline, per questo oleodotto che c'era fra Canada e Stati Uniti, si riunirono e dissero era da quanto tempo che non si riunivano le varie nazioni dei nativi per resistere a questo oleodotto. E quello fu un momento alto, fra l'altro Leonard Pelletier si espresse e uscì pubblicamente dicendo che appoggiava la lotta. E quello fu uno dei momenti più alti recenti. Due anni fa, per esempio, rispetto alla vicenda di Pelletier c'era molto più energia che arrivava dagli Stati Uniti. Adesso beghe spesso avvengono, no? Beghe fra loro, molto, molto brutte, molto triste, anche proprio rispetto al comitato di Pelletier, su cui non mi soffermo perché non ne vale la pena, però capisci che in questo momento stiamo, per Pelletier forse stiamo facendo quasi di più in Europa che non negli Stati Uniti. La situazione degli indiani possiamo solo immaginarla, cioè c'è chi è integrato e sparito, c'è chi beve ancora, c'è chi ha queste riserve, c'è chi gestisce un casinò, c'è chi però insomma sicuramente non hanno ottenuto. Pensate che quello che cercavano, avete visto in quella prima occupazione di Alcatraz, e lo diceva perché era un trattato, no? Perché il trattato a suo tempo diceva un territorio che viene abbandonato dal governo, dopo un po' passa, torna nelle mani dei nativi. Per quello loro rivendicavano quell'isola come loro diritto, insomma, voi avete detto così, infatti lo dice, da 6 anni abbandonato deve tornare a noi. Invece tira e molla, non gli è andato nulla. E avrebbero trasformato il carcere, quel carcere che c'era a Alcatraz, storico e famoso, in un centro culturale, museo e tutto, sulla storia dei nativi americani. Quindi sarebbe stata una cosa formidabile. Non l'hanno ottenuto. Cioè, attualmente, io sono stato 5 giorni in vita mia negli Stati Uniti, ne avrei fatto anche meno, ma vabbè. E a New York c'è un museo sui nativi, non è neanche nominato Leonard Pelletier. Insomma, sono un po' così. Folklore e non so, però non è la situazione, è infelice. Prego. Senti, ma quel documento che tu c'è scritto, noi abbiamo mentito, eccetera, dov'è? Ah no, è una lettera che a un certo punto i giudici hanno scritto al presidente. Sì, e sì. Finisce lì? Sì, ma sì, tanto non rispondono questi, non... è una dichiarazione. Sì, è una dichiarazione, ma sai, sono quei cavilli per cui loro ti dicono sì, ma giuridicamente non puoi fare più nulla. Come dire, è arrivato al capolinea quel processo, non puoi anche saltasse fuori anche, che non dicesse sono stato io così, no, mi spiace, quel processo va avanti, cioè, capito, è la follia. Per cui è solo esclusivamente una firma del Presidente, questa qui era per motivi di salute, ma non per motivi giuridici, che possa essere per cui qualcuno dice ma sono saltate fuori dalle droghe, perché hanno già più volte negato il rifare il processo quando, ma non adesso, quando negli anni 70, poco dopo, avevano trovato delle prove rispetto al fucile, rispetto al proiettile, che avevano trovato di qua e di là, il processo non si rifà e basta. E quindi, d'altra parte, per farvi un'idea dell'incattivimento dell'FBI, Clinton era a punto di firmare a suo tempo. Clinton vuol dire, fatti i conti, però vuol dire io credo 16 anni fa, che se facciamo i conti, insomma, due di Obama, uno di Bush e uno di Biden, più. Molti di più. Secondo me 16, Clinton che ha lasciato, Sono 24, dal 92 al 2000. Esatto, 2000. Ah, vabbè. Comunque 25. Clinton era a punto di firmare, perché si vede che 24 anni uno poteva dire, no, dal 76 poteva... E quindi, cioè, c'era molto ottimismo e l'FBI manifestò sotto la Casa Bianca, l'FBI, il giorno prima. 500 persone fra agenti e familiari. E Bill Clinton che appoggiò la penna sul tavolo e non firmò. Potete immaginare la nostra delusione, perché ho iniziato 14 anni fa questa cosa e quindi quando Obama stava per lasciare era chiaro che le aspettative erano le più alte che potessimo avere, sia perché lasciava dopo 8 anni, dopo aver pianto nel carcere di Nelson Mandela nell'isoletta, dopo aver fatto e detto soprattutto fatto meno quello che diceva, e soprattutto perché in quel momento quando lasci tu sai già che hai perso, cioè quindi sapeva già, perché lasciano, cioè anche adesso Biden lascerà al 30 dicembre quando avrà già perso magari. Cosa voglio dire? Che lui sapeva già che sarebbe venuto Trump dopo di lui, quindi tu merda, non firmi, sai che il prossimo che arriva è Trump, quindi se gli va bene gli lasci altri 8 anni di galera davanti. Quindi Obama è stata proprio la più merda delle merde, scusate il termine, e, però è così. E nulla, si va avanti, è un simbolo, è una storia, per me raccontarla ha già un valore di per sé. Scusa, allora l'unica speranza è che Biden firmi e basta. Cioè poi basta, poi è il presidente successivo. Il presidente successivo potrebbe farlo anche il secondo giorno che è in carica, però, voglio dire, sarà la seconda cosa che fa, la prima cosa che farà? No. Sono questi atti di clemenza, li fanno proprio l'ultimo giorno del loro mandato, in cui ne firmano un po', 10, 15, 20, probabilmente i peggio stronzi li tirano fuori. Per cui non ricordo che 4-8 anni fa, insomma, si battagliava come sempre per Peltier, venne tirato fuori un altro che era il personaggio importante del portoricano, che anche lui sarà fatto qualche decina d'anni, almeno quello uscì fuori. Ma Peltier, non mi aggiungo già male, compagnia bella, continuano a marcire dentro. Quindi sì, in questo momento, per quello sono questi momenti verso il finale dei mandati in cui si concentrano tutte le iniziative, dopodiché si va avanti ciclicamente perché la storia si sappia. E si sa sempre meno, perché, voglio dire, la questione invecchia, c'è gente che rimane a bocca aperta dicendo come ancora in galera, magari vecchi compagni o compagni che ti dicono ma io l'ho sentito negli anni 80 si faceva, cioè, noi quando eravamo in Spagna, perché io ho vissuto a lungo in Spagna, tiravamo fuori questa pagina del País che diceva inizia la campagna per la liberazione di Leon Peltier, era una pagina del 1992 del País. Quindi è proprio, se voi guardate su internet, è una stratificazione di canzoni, di murales, di appelli, di iniziative, di campagne che ripartono, per cui capite di che anno è a seconda della data che ti dice Leon Peltier è in carcere da 37 anni, è in carcere da 29 anni, così, invece in realtà questi anni continuano ad andare avanti. Ed è incredibile come quest'uomo ce l'abbia fatta, cioè solo credo una forza spirituale ti permette di andare avanti, fisica, ma soprattutto secondo me spirituale o comunque interiore, per reggere 49 anni in carcere di massima sicurezza. Vuol dire che non è mai uscito, se non come racconta lui, in una fuga in cui probabilmente, anzi con ogni probabilità, insomma, quelle fughe precotte in cui ti sparano alle spalle più che volentieri e quindi risolvono il problema e se la cavò, nel senso che ammazzeranno gli altri e lui no. Viene ripreso dopo per 4 giorni, ripeto, si salvò la pelle. o come altre volte gli hanno detto, guarda, mi hanno detto di ammazzarti, non lo faccio, ma sappi che ci stanno provando, per cui non è che si sono fatto neanche questi anni di galera, come dire, a leggere, a dipingere, grazie al cielo ha dipinto, perché fra l'altro nel libro qui la sua vita, verso i 10, 12, 13 anni, come potete immaginare, questi bimbetti, ragazzini così, hanno dei desideri, dei sogni, in un luogo ancora ben peggio, no, dei nostri, insomma, in cui una scuola è frutto di una selezione, quindi provi a scrivere alla tal scuola d'arte che ti prenda così, non è stato preso, basta, non hai soldi per pagare la compagnia bella, quindi a 14 anni ti metti con le pinze a aggiustare le macchine, infatti lui come tanti altri metteva a posto motori, insomma, no? Per cui se vedete le immagini di queste riserve indiane spesso sono oltre, io le paragono molto dei campi rom per dare dell'idea, oltre all'abbandono, alla miseria, alla povertà, alla solitudine lì dove sono, vedi tante carcasse di macchine che probabilmente servono per avere i pezzi di ricambio, per metterne a aggiustarne una, e quindi è questo. Lui fa questo, però in quegli anni salta fuori e lui da ragazzino comincia a osservare queste danze del sole, questi riti così, che dici, cazzo, come dire, che ridavano forza, energia a un popolo che altrimenti era distrattato e maltrattato, quindi anche lui si è fatto, e lui lo dice, sono stati i miei primi anni di carcere, sono stati quelli nella boarding school, no? E poi c'è questa scena che racconto quasi sempre alle presentazioni, perché sono maestro elementare, quindi quando lessi queste due pagine mi colpirono tantissimo, e lui descrive questa scena in cui lui è bimbo, 7-8 anni, 6, non lo so, in cui dall'altra parte della strada dei ragazzini bianchi, 4-5, no, cominciano a insultarlo, bullismo si direbbe adesso, no, razzismo invece, in questo caso, per cui, oh, pezzo di merda, vattene, cretino, non lo so quello che potevano dirgli, no, indiano di merda, tornatene, non lo so, sparisci, non farti vedere più qua, gli tirano sassi, ma Leonard Peltier, bimbetto, questo movimento che, se pensate, è la moltiplicazione della storia degli indiani, la moltiplicate all'ennesima potenza, prende un sasso e glielo tira, sembra il 7 ottobre, e pam, ne becca uno in testa che comincia a sanguinare, minchia, sti 4-5 bimbetti, hai visto cosa ha fatto Pierino, hai visto, allora, bastardo, guarda che sanguina, quindi aveva tirato prima i sassi loro, no? Guarda, vedo di merda, adesso vedi, vai a casa, vedi il corpo, il sangue, così vanno via, no? Bimbetto, Leonard capisce, un po' come è successo il 26 giugno quando ho scoperto che erano due dell'FBI, no? Abbiamo cagata, si darebbe in Spagna. Infatti lui corre a casa, si nasconde sotto il letto e c'è questa scena che lui descrive che è da film proprio, e arriva una grossa macchina davanti a casa e si ferma. E lui dice così, che secondo me l'immagine è formidabile, dice: ogni volta che davanti a una delle nostre case si ferma una grossa macchina, sono problemi, è automatico, no? Scende la donna, che era verosimilmente la madre di questo bambino, e figa, comincia, capito, non a inveire contro il fatto, ma contro le nazioni indiane e il pelle rossa e il genere dei nativi, cioè, capito, che se ne vado, che vanno in galera, che possono morire, che vi diamo fuoco alla casa, cioè tutto, tanto che, e questo secondo me dà il peso e la sproporzione, no? Cioè del razzismo viscerale, che secondo me poi, fra l'altro, appunto, non a caso dicevo 7 ottobre, ha dei paralleli con la Palestina e Israele pazzeschi. E alla sera il nonno arriva a casa, prima si incazza col bambino, poi il bimbo spiega cosa era successo, il nonno, come dire, stringe i denti, ma raccoglie la moglie, la nonna, i due nipotini, carica tutti in macchina e va via, cioè lascia quella casa, perché, come dire, possono farcene tante per questa cosa, cioè la vendetta di questa donna si può trasformare in una gioia, quindi via, fuori dalle mani. Quindi capite che è la stessa cosa delle decine e decine di morti dell'American Indian Movement, quello non fotte nessuno, ma cazzo, due dell'FBI, è come quel sasso in faccia al bambino bianco. Cazzo, qualcuno la deve pagare, ma non la deve pagare. Io credo che non gli abbiano dato la pena di morte, non li ammazzino perché non vogliono più Sacco e Vanzetti. Non lo so, non riesco a capire perché. Probabilmente gli costa molto di più, c'è gente che gli rompe le palle così, però comunque sono riusciti a calarne in un silenzio. Forse l'avessero ammazzato, non so, ci ricorderemo come Bobby Sands, non lo so, insomma, con altre storie di questo genere. Ma Leonard Peltier, effettivamente, se chiedete in giro, ben pochi conoscono la storia, per cui sono riusciti nel loro intento. E per cui la mia principale cosa è raccontare questa vicenda, poi spingere il possibile perché esca quest'uomo, far conoscere la vergogna di questo paese veramente di merda, perché abbiamo manifestato tante, tante volte davanti ai consolati, abbiamo raccolto a Barcellona qualcosa come 5.000 firme, non ci hanno neanche concesso di consegnarle dentro il consolato, cioè a qualcuno ma al portiere che ci vedeva tutti i giovedì lì, cioè quello che avrebbe buttato il cestino senza neanche darci un biglietto. Però contemporaneamente ogni giovedì c'era a 100 metri di distanza da noi un fotografo che veniva fuori dall'angolo ogni 5 minuti, quindi abbiamo detto che qualche posto di lavoro lo creiamo e questo. Siamo già soddisfatti. Si va avanti perché io ho sempre detto che se c'è qualcosa di peggio di stare 48-49 anni in galera è stare 48-49 anni in galera senza che nessuno parli di te fuori. E quindi è un messaggio che spero rimbalzando nell'aria e nelle onde arrivi fino a lui. In realtà in qualche modo ci arriva perché siamo comunque tanti gruppi collegati e io stasera se facciamo una foto la mando, pim pum pam, hai visto Milano, pam pam, insomma tutto aiuta. E quindi anche i presidi che faremo in questi giorni, dopodiché è verissimo che rompere il silenzio è pazzesco perché io con i media ci provo da sempre, ma voglio dire, non fonte nulla. Così, l'unica volta che uscimmo su un media un po' grosso fu perché quando Obama andò a Roma, andò in Vaticano, io andai in piazza pieno di cartelli e cose, mi arrestarono una giornata, però allora a quel punto gridai ai giornalisti, un matto che gridava, lo riprendo, esce la notizia. Però, molto poco. Ditemi ancora, io sono sveglio, cazzo, non dormite voi, eh? Vai, grande. Prego. Nel filmato risulta che, diciamo, le funzioni più gravi dei territori dei nativi dovute all'estrattivismo, cioè uranio, oro, e hanno citato il fracking, questa tecnica, certo, molto di attualità con la guerra del petrolio, con la Russia, eccetera, che distrugge l'acqua che ci vuole. Certo. No? Insomma, sembra che è un argomento che è aperto. No, no, no. Ma infatti secondo me è molto bello quello che dice anche lei, no? A un certo punto dice il problema è che siamo presi da come noi qui in fondo, no? Dai problemi più urgenti e non capiamo che questo invece è un problema gigantesco, no? Quello rispetto al pianeta, all'acqua e a tutto questo. Io quando ho l'occasione di parlare con giovani lo dico, insomma, anche a questi che giustamente, giustissimamente manifestano rispetto al pianeta le condizioni. Dico, cazzo, ma andate però anche un po' a rileggervi queste cose, perché quello che dite voi l'hanno detto 50-100 anni fa i nativi. Cioè, avevano capito, avevano detto, guardate che cioè, a voi andate dritti a schiantarvi contro il muro. E adesso non siamo lontani, insomma, adesso stiamo cominciando a aprire gli occhi. Io fossi un indiano me la riderei, non so. Si potrebbe lanciare una campagna di boicottaggio dei prodotti degli Stati Uniti. Osteria! Minchia! Con sì, la situazione che stanno facendo, anzi il genocidio che stanno facendo. Che hanno fatto. Come diceva prima Visconti, no? C'è tutto questo materiale che la maggioranza della popolazione muore per questi gradulari, tutto quello che c'è aperto. Risposta, non c'è. Ma... Collegamenti con i Mapuche ce ne sono? Io credo direttamente, no, di sicuro. Noi in realtà, seguendo le note, quando avevamo un sito a Barcellona, avete visto che era uno dei collegamenti principali dai Mapuche. Ma per noi, cioè nel nostro immaginario, come lo era già con i Notav prima che ci fosse questo incontro. No, secondo me no. Non ci sono legami fra lotte indigene. Sì, ci può essere il presidente boliviano Evo Morales, che a suo tempo sì, disse che Leonard Peltier andava liberato, insomma, perché qualcuno probabilmente l'ha detto così, e allora mette insieme il fatto che un popolo originario sia uno, un popolo originario sia l'altro, però non mi sembra tanto. Anche tra Canada e Stati Uniti, cioè in fondo lì la storia è proprio parallela perché il confine non c'era, insomma avete visto, Bernard Peltier scappa in Canada, ma era un tutt'uno lì, no? Eppure avete visto, insomma, sono state scoperte da poco centinaia o migliaia di corpi sottoterra di bambini in queste scuole in Canada che avevano preso. Quindi non so, per esempio, non so quanto fra i nativi attualmente vi siano ancora lingue usate, conosciute, usate in maniera diffusa, non lo so. Però appunto il movimento del Standing Rock è stato grosso, Sì. Tra l'altro qui avevamo dato, cos'era, due anni fa, quel film che fa il parallelo tra riserve indiane e campi palestinesi, non so se ve lo ricordate. No, è un lavoro notevole, veramente notevole, di un gruppetto di compagni intorno a New York, che lavoro te lo giro perché è titolo. Perché non avevi proponente con. Sì. Ditemi. No, io volevo dire una cosa, che così un pensiero ad alta voce, di come noi bianchi occidentali così siamo sempre più fortunati di loro anche nelle situazioni, come dire, tragiche. Mi vengono in mente tre liberazioni dalle carceri statunitensi di tre personaggi molto molto diversi. Una era Silvia Baraldini, poi Chico Forti, piuttosto che Julian Assange, e però perché bene o male bianchi, e perché in qualche modo hanno, come dire, qualcuno che, non lo so, viene considerato di più dai poveri disgraziati palestinesi, prima si diceva, piuttosto che, anche se oggi ho sentito che due palestinesi sono usciti dalle carceri, certo, italiane, ben certo, venga, certo. Però effettivamente c'è questo parallelo tra noi bianchi. Il razzismo fa talmente uno zoccolo così duro, capisci, che è proprio durissimo da scalfire. È vero quello che dici. Allora, prima però andate via, oltre alla foto c'è una firma da fare, un volantino da prendere se volete, ci sono delle ultime copie di un libro che non è, mi spiace quello di Leonard Peltier, ma questa è da Scozza, che, dove ci sono anche delle riproduzioni di quadri suoi, raccontata la storia di Peltier, però se vi interessa. Cosa c'era d'altro? Ditemi. Prossimo appuntamento. Beh, prossimo appuntamento. Chi può, domani alle 6:30 siamo sotto il consolato degli Stati Uniti, dove siamo stati più volte. Io poi farò questo giro. Appunto mercoledì a Genova, giovedì a Roma, venerdì a Napoli e sabato a Firenze. Allora io vi chiedo davvero, avete visto questo documentario, se vi vengono in mente luoghi e situazioni, ma l'ottimo sarebbe anche delle scuole superiori in cui andare a proiettarlo, a raccontare, sarebbe veramente la cosa migliore, o altre situazioni anche fuori Milano. Io andrò nei prossimi giorni a Legnano, a Novara, insomma ovunque io riesca a andare e tornare in giornata, se no lavoro appunto come maestro elementare. Cos'altro ancora? Queste firme le troverete da firmare online, se vi mettete a smanettare, ma queste le raccogliamo su carta e poi le spideremo in una busta, insomma, ne stiamo raccogliendo tante. Così, oggi o domani, no, oggi non sono arrivate, ma domani arriveranno dalla Germania alcune centinaia di cartoline, e cercherò di raccogliere tutte le cose e poi le manderemo, cioè dalla Germania hanno stampato qualcosa come, non so, 50.000 cartoline con la faccia di Peltier. È tutto, capito, un lavoro come di Amnesty International diffusa, perché c'è anche Amnesty International che chiede anche formalmente la sua raccolta di firme, così, però insomma non è mai sufficiente, anche se l'ha fatto con Human Rights Watch, insomma. Però anche tu dicevi, per la sua liberazione questo giudice ha scritto questo e non succede nulla. Però per la sua liberazione si sono espressi in questi anni, cioè da Madre Teresa di Calcutta, Nelson Mandela, Desmond Tutu, al Dalai Lama, al Papa, Mikhail Gorbaciov, a Madonna, James Brown, che ne so, tutti, capito? E compresi appunto gli stessi giudici che a suo tempo lo misero dentro. Però per farvi un altro esempio sempre di questa sproporzione di forze formidabile, negli anni 80, credo, forse 90, insomma, però il nostro libraio ne saprà di più, Peter Mathiesen scrive negli Stati Uniti un libro che poi verrà tradotto nello spirito di Cavallo Pazzo. Fa un lavorone di 350 pagine, tutto sulla vicenda di Leonard Peltier, ma non sulla vita di Leonard Peltier, ma questo su quelle ore, un librone così. Esce il libro, esce negli Stati Uniti, in tutte le librerie, track, due, un agente, credo dell'FBI, e un agente dei Goons, insomma, si ritengono, come si dice, danneggiati, vilipesi, come cazzo si dice? Infamati. No, infamati, ma c'è una tecnica. Oltraggiati. Oltraggiati, insomma, così, denigra. Non lo so, comunque, feriti nella cosa. Ritirano tutti i libri, cioè, secondo me ritirare tutti i libri, non so, però non deve essere così facile, e viene fermato tutto. Processo. Vanno avanti per 7 anni con il processo. E questi anni il libro non esce. Quindi mettiamo da parte un po' di anni fuori dalle palle. Alla fine vincono, vince l'editore e l'autore, e il libro esce finalmente. Infatti viene tradotto poi in italiano ed è lo spirito di Cavallo Pazzo. L'ho letto, anche lì probabilmente ne stampano comunque non tante copie. Ma la cosa più incredibile, signori, hanno vinto. Ma editore e autore alla fine avranno speso $1,500,000 tra avvocati, processi, viaggi, minchie fritte. Avete capito? Cioè, l'FBI ti scarica addosso. Cioè, quando lo dice a Gerard Mundo, hanno sparato 35,000 colpi quel giorno. Cioè, giustamente il primo processo, i primi due, disse non abbiamo prove, disse sarebbe stata legittima difesa. E così, fotocopia, doveva essere il processo a Leonard Peltier. Perché non avevano alcuna prova, cosa che loro ammettono, e fosse stato anche lui, sarebbe stata legittima difesa. Invece Leonard Peltier, cioè il 448, ma vi ricordate che tirano fuori questa donna, la donna che dice quelle cose lì, spaventata, perché viene spaventata? Perché un anno prima, non tanto tempo prima, scusa, Anna Maesquosh, di cui tu mi passasti il libro così che lessi, anche lì con grande arte, se lei fosse stata Anna Maesquosh, io cominciavo a dire, sentite, ma quella, io l'ho vista l'altro giorno che entrava in questura, non so perché entrasse in questura, cazzo, tutti cominciano a guardarla male, no? Finché a un certo punto la trovano morta e dicono, hai pensato tu a farla fuori, come dire, cioè ti mettono in tal cattiva luce dentro che poi puoi sperare anche che se la fai sparire poi qualcuno penserà siete stati voi stessi, perché in fondo l'avete fatta fuori. Bene, la trovano morta, ma per non riconoscendola bene, non avendo mai indizi precisi, le tagliano le mani al cadavere, lo mandano in una scatola alla capitale così per vedere le impronte digitali. Quindi è verosimile che a questa donnetta cui dissero tu sei la moglie di Leonard Peltier non ha fatto vedere o le mani direttamente o le foto delle mani, oltre a dirle senti ma i tuoi figli vuoi che vivano con te, ci mettono, fanno così a toglierti i figli, l'avete visto, figurati. Quindi quella dice queste cose, ma dice queste cose e poi si scopre subito che è, come dire, è stata forzata, che è stata, però era già arrivato Leonard Peltier, cazzo me ne frega. Infatti il governo canadese protesta formalmente dopo dicendo ma ci avete mentito, che cazzo ce ne frega, ormai ce l'avete dato, lo diamo indietro. Tanto che al processo a Leonard Peltier non tirano fuori neanche quella donna, era talmente improponibile, aveva mentito, l'ha detto poi ho mentito, quindi non la usano neanche, tirano fuori qualche altra palla, appunto per tanto che il giudice a posteriori quando esce dice non avevamo alcuna prova, ma qualcuno dovevamo pur mettere dentro. Noi nel nostro striscione lunghissimo, che se venite domani vedrete, perché è lungo, non è quello che vi faccio tenere adesso, ma è molto più lungo, dice Freedom for Leonard Peltier, e sotto abbiamo sempre messo dall'inizio proprio Mumia Abu-Jamal and all political prisoners, perché Mumia Abu-Jamal è la storia parallela, gemella a Leonard Peltier, insomma sono l'uno simbolo dell'American Indian Movement, l'altro delle Black Panthers. Mumia Abu-Jamal ha una storia simile, ha un po' qualche anno in meno di carcere, però una decina fatti nel braccio della morte, e vi racconto questa storia perché l'ho scoperta anch'io approfondendo la storia di Leonard Peltier, quindi di Mumia Abu-Jamal e quindi di chi? Dei MOVE, che non so se sapete chi erano, un gruppo... Sono venuti qui ospiti. Davvero? Loro? Chi? Ramona. Ramona. Il disegno di San Calvagno. Bella. Allora, la ripeto brevemente la storia per chi non la conosce. Comunque questo gruppo dei Moop era questa, io l'ho definito una specie di cascina torchiera in mezzo a Filadelfia, in cui vivevano questo gruppo di libertari, fricchettoni, non lo so insomma come chiamarli, insomma con questo spirito in cui il loro obiettivo principale da, come dire, rivoluzionari da presa del palazzo era liberare gli animali dai giardini zoologici, quindi però... Oltre che cultori dell'aglio. Ah sì, non sapevo questo, però come dire, si erano cancellati tutti i loro cognomi, si chiamavano Africa tutti quanti, bimbi belli, scalzi, liberi e belli, così comunque a un certo punto al governo di Filadelfia, per quanto sia Filadelfia, gli rompono le balle, quindi circondati, sparano dei colpi, muore come al solito un poliziotto, può darsi benissimo dal fuoco amico perché avendo circondato la cosa. Bene, per quello morto uno, in nove, come se il nove avessero infilato il dito dentro un grillettone gigante così, si beccano 40 e passa anni di galera. Ma non contenti, per farla breve, qualche anno dopo, non avendoli debellati del tutto, se voi vedete, mettete su Move Bomb, vedete che c'è un servizio di Democracy Now con la buona Amy Goodman, e c'è questo elicottero che sgancia questo zainetto, si vede benissimo, e quindi la bomba esplode, ne ammazza 11, credo, di cui 5 o 6 bambini, rimane la Monafrica fra i pochi sopravvissuti, l'esperienza del Move viene cancellata e bruciano 52 palazzi intorno alla nostra cascina torchiera, quindi non è una bombetta, insomma, no. Per cui la ferocia degli Stati Uniti è tremenda, per cui Mumia Bujamal, che stava a Filadelfia, faceva il giornalista radiofonico, al primo processo, quando misero in carcere i nove, all'uscita dal tribunale, al sindaco che aveva fatto il macio per debellare questo coso, gli fa 2, 3, 4 domande scomode. Qualche giorno dopo Mumia Bujamal uccide questo poliziotto mentre era sul suo taxi, e così, era una coincidenza, però voglio dire, anche lui aveva fatto domande scomode. E... Dicevo di accennare che stai brigando per ripubblicare il libro? Sì, stiamo brigando per ripubblicare il libro, che ripeto è questo, se lo trovate in biblioteca, io da qualche anno, lo confesso, chiedo perdono ai librai, però lo fotocopio a manetta, perché Fazzi non ha più i diritti, non lo so, però lo fotocopio, lo metto le spirali, però adesso non ne ho. Però se lo trovate in biblioteca, leggetelo, fu quello che a me attraversò proprio da fuori a dentro, e stiamo cercando con una piccola casa editrice, qua, certo. E, però non so se alla fine ci riusciremo, se no vorremmo farlo con Eleutera, a quel punto ci sarà bisogno di molto più tempo, però sarebbe una cosa che avrebbe molto più risalto, e io spero quasi che si faccia la seconda opzione, perché la prima ci sta dissanguando, non in termini di soldi, ma in termini di energia dovute a complicazioni. Però prego, volevo chiedere una cosa, il nome del film, c'è questo collegamento molto interessante con il movimento Notav. Se ci sono stati altri rapporti con movimenti ecologisti, insomma, possono magari... Loro? Non lo so, sinceramente. Non lo so. Qui in Italia è stato sicuramente l'incontro più forte, perché, non lo so, però è vero che in Valsusa passano un po' tutti quelli che... non lo so, ce l'hanno raccontato loro stessi in Valsusa, che di là sono passati anche i Mapuche, di là sono passati i palestinesi, di là sono passati un po' tutte le lotte, e poi con i francesi hanno, con i francesi, con i tedeschi, queste relazioni forti di queste battaglie per salvare il territorio dalla nuova miniera di carbone, dall'aeroporto, però io credo che quella a cui vennero qui fu una delle poche volte che loro uscirono dagli Stati Uniti, quindi era una cosa abbastanza nuova per loro. E fra l'altro io curiosamente, ma per farvi capire come anche noi probabilmente da buoni bianchi siamo intrisi di razzismo, quando vennero dalla Francia qua, io pensai, cazzo, come fanno quei documenti? Io segno italiano agli immigrati, quindi so i casini per i documenti. Cazzo, come fanno quei documenti adesso? Ci fermano? Hanno il passaporto degli Stati Uniti. Cioè, non avevo minimamente collegato il fatto che dei nativi, e quindi come dire, fanno parte degli sfigati. Come cazzo hanno un passaporto così forte? Invece almeno quello ce l'hanno. Però nel nostro immaginario, come dire, la pelle di un certo colore, passaporto di tal colore, come dire. Vedo che hai citato un documentario Incident at Oglala. Sì, sono parte di quelle immagini Incident at Oglala. Io credo che in inglese lo troviate su internet, però da qualche parte si trova. È prodotto da Robert Redford, quindi come dire, ci mise del suo a suo tempo. 2 ore di documentario, noi allora l'avevamo in Spagna, l'avevamo sottotitolato in spagnolo e presentavamo la prima ora perché era molto lungo, 2 ore erano troppe. Però è pieno di immagini, è una bella ricostruzione. Ma erano quelle scene in bianco e nero con le sì. No, questo chi l'aveva girato, scusa? Ma insomma, anche loro stessi avevano preso immagini di repertorio, dopodiché l'incidente a Oglala è tutto un'intervista, una cosa, una ricostruzione, delle immagini fanno finta che ci sia la macchina che arriva lì. Insomma, è un documentario, però molte immagini sono riprese da quel film o di repertorio. Vi leggo un paio di poesie di Peltier, perché una è che questa di Due Righe è molto bella, dice: il mio crimine è essere indiano, qual è il tuo? Mi continuo a chiedere. No? Poi dice questo: io sono chiunque sia morto senza una voce, né una preghiera, né una speranza, né un'opportunità. Chiunque abbia sofferto perché è indiano, perché è umano, perché è indigeno, perché è libero, perché è altro, perché è impegnato. Io sono chiunque di loro, ciascuno di loro. Sì, perfino te. Io sono ciascuno. Probabilmente mi sono sentito questa poesia come uno staffiletto dentro, ho detto, allora, ci dobbiamo dare da fare. Pensate che in una situazione come questa, Amy Goodman, che è qui che presiede, ha la possibilità di parlare al telefono con Leonard Peltier, si vede su internet così. Quindi, come dire, silenzio, adesso metto viva voce. Leonard, mi senti? Come va? Come stai? Insomma, guarda. Poi a un certo punto gli chiede, e io lì mi inchino e bacio per terra, gli chiede Amy Goodman: cosa diresti al presidente Obama se fosse lì davanti a te? Che la smetta di buttare bombe per il mondo! Un mito. Un grande. Per cui, non lo so, secondo me c'è un'umanità notevole, e che poi, comunque, non è che, appunto, anche noi tendiamo sempre a vedere un po' bianco e nero, no? Cioè, stessi nativi, come c'erano i goons che erano quelli pagati e che sparavano agli altri nativi, non è che siano tutti. Però lui fa parte di questa storia in cui ci provarono, insomma, ci provarono un'ennesima volta. E poi sicuramente rileggere i testi di quegli anni, che sono più di quegli anni che non dei nostri, c'era proprio una, in quegli anni, una grossa riscoperta e una grossa valorizzazione, cioè anche in questi racconti di questi antropologi che vanno là, loro li pigliano per il culo proprio dall'inizio alla fine, non lo so, insomma, però queste scene veramente curiose, no? Di questi bianchi che arrivano così, poi più delle volte appunto sull'onda di multinazionali che devono, però come dire, però ci fanno anche sopra un po', di ricamano un po' di antropologia o che so io, però avete altri 5 minuti per fare 2 domande, se no. Ma come te lo spieghi questo silenzio su mia chiamata? Cioè in tanto non se ne parla quasi più, ma non proprio mi risulta. Pensa che Radio Popolare, possiamo perdere, Radio Onda d'Urto mi dà retta sempre, ma Radio Popolare o pochi anni fa disse poi Mumia Bugiamal, nomino Mumia Bugiamal, e il giornalista mi dice purtroppo, così, come dire, fa una battuta, come dire, è morto, e sono finita la telefonata e mi chiamo, guarda che non è morto, cazzo, lasciamo perdere. Per cui è un silenzio tombale. Però vedi anche lì negli Stati Uniti, a volte vedi questi comitati così, vedi delle immagini, dici, cazzo, più giovane, 75 anni, dici, cioè, che forze, che grinta, che energia ci possono mettere. però boh, probabilmente c'è un sottobosco anche per Mugna. Io adesso ti posso elencare quello che c'è per Peltier perché sono venuto in contatto, capito? C'è questo Mike che in Germania ha scritto un librone sulla storia di Peltier in tedesco, quindi non l'abbiamo né letto, tantomeno tradotto, però è lì, macina, altri sparsi qua e là ci sono, però vanno e vengono. Io in questi 14 anni ne ho conosciuti diversi che sono spariti, c'era uno in Irlanda, c'era Bruxelles, c'era Parigi, poi boh, molla, la gente si stanca. Io me l'ho ripromesso 14 anni fa, me l'ho detto, io da oggi devo raccontare almeno a una persona al giorno la storia di Leonard Peltier, quindi per 8-9 giorni sto scherzo. Però ne ho raccontate a ben più di 365 per 13, quindi sono contento da parte mia. Dopodiché, come dire, uno fa quello che può. Non sono sicuramente uno stratega, insomma, probabilmente si sarebbero dovute usare altre leve, altre astuzie, insomma, però ci sono state anche delle grosse delusioni. Prima tu hai nominato Silvia Baraldini, io l'ho sentita anni fa, e dici, e che ci posso fare io? Cazzo io, capito? E che ci posso fare io? Lasciamo perdere, ciao, grazie. Cioè io sono un maestro mentale, l'ultimo rimasto. Vabbè. Per cui a volte ci sono anche delusioni, a volte invece altri che danno più retta, però... Ripeto, la Radio Popolare è una discreta delusione, però se voi invece avete contatti, non so, noi vorremmo fare una festa concerto, potrebbe essere anche qua, perché no? Perché abbiamo due o tre gruppi almeno che ci starebbero, Alessio Lega che più di una volta ha già seguito, ha suonato delle cose anche per lui, non lo so, pensiamoci magari. Sì, sì, poi nel tutto chiedere in giro, Ma si può, nel tutto chiedere in giro se a breve... c'è la possibilità di interesse a organizzare qualcosa tra la Brianza e poi vedremo.